L'ultimo dopo. In mezzo del mondo qualcosa divide la gente da noi, ma quello che conta e non è senso, quello che conta che tu sei con me. Adesso che il fumo cancella l'estate, il grigio ritorna scendendo su noi, la lunga vacanza si chiama per sempre, una qualcosa di con